already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. If you think about what fraud is, fraud. Se pensate a che cos'è una frode. And then it's betrayal. La frode è la creazione di una fiducia e quindi il suo tradimento. Beh, comincia così, messo online su un sito internet appositamente creato, se avete voglia andatelo a cercare, è www.keatingeconomics.com, dove Keating si scrive Keating col K iniziale, keatingeconomics.com. È stato messo in linea online ieri, è un documentario tra l'altro di fattezze, di realizzazione estremamente sofisticata, insomma ci hanno perso tempo a farlo, dedicato ai Keating Five. In realtà è un formidabile attacco che lo staff di Barack Obama ha deciso di indirizzare nei confronti di John McCain, un attacco in forma appunto di narrazione filmica, di documentario, dopo che milioni di email che contenevano una presentazione di 30 secondi erano state inviate in tutto il mondo e soprattutto in America per annunciare l'uscita di questo documento video. La campagna di John McCain ha finora evitato di parlare di questo scandalo, ma ci sono troppe somiglianze con la crisi attuale per ignorarlo ancora. Gli elettori devono essere messi al corrente dei fatti e valutare le infelici scelte del senatore McCain, dice il documento che accompagna il video. Naturalmente è un modo elegante, anche un po' ipocrita, di dire stiamo restituendo a John McCain quello che sta cercando di affibbiarci a vangate, a valanga, ovvero la connessione con storie sporche. Sapevamo che la campagna elettorale americana, giunta a 28 giorni, a 4 settimane dalle votazioni, sarebbe diventato un affare estremamente caldo, e le cose stanno andando esattamente così. Il caso Keating, di cui si parla in questo documentario, risale al 1989, al crollo della Lincoln Savings and Loan Association, che era una istituzione finanziaria, per l'appunto guidata a quel tempo da Charles Keating. Ci furono 21.000 investitori, in buona parte persone anziane, che aveva investito i risparmi, il frutto di una vita di lavoro. Sono cose che poi non ci suonano così estranee, no? alle nostre orecchie. Ebbene, 5 senatori, appunto i Keating Five, come dice il titolo di questo documentario, uno dei quali era John McCain, furono coinvolti nella successiva inchiesta del Congresso che fece luce sullo scandalo, e furono accusati di aver usato in modo inappropriato il proprio potere politico in chiave lobbistica a favore di Keating. John McCain, però, questo magari è tenuto leggermente in ombra dal documentario, alla fine fu giudicato innocente, ma fu comunque criticato duramente dalla commissione per essersi dimostrato poco giudizioso. È questa l'aria che tira nel giorno del secondo dibattito, di cui oggi parleremo ampiamente. Un'area di gioco veramente spietato, ormai si sono tolti i cappucci e i cannoni, insomma i due schieramenti devono giocare tutto sugli argomenti, come vorrebbe, come sostiene o prova a sostenere Barack Obama, o devono giocare tutto sullo smascherare e una eventuale debolezza della personalità dell'avversario, che è quello che i repubblicani stanno cercando di fare negli ultimi giorni, insinuare insomma il dubbio che Barack Obama non sia quello che sembra, che abbia dei coni d'ombra, che sia un personaggio compromesso, o addirittura, come dice Sarah Palin, che sia un amico dei terroristi. Today they're saying for the first time that Barack Obama didn't know back then about Ayers' radical background. Eccola Sara che fa il suo comizio e dice: adesso viene fuori che Barack, bene o male, dice che l'ha conosciuto, anzi che è stato proprio nel tinello di casa di questo Mr. Ayers, ex terrorista di un'area un po' particolare, quella dei Weathermen, Weather Underground, una banda, un gruppo di terroristi più che altro situazionisti, non fecero mai reali danni, reali attacchi allo Stato, cercavano di dimostrare il loro dissenso in una chiave violenta ma anche simbolica, insomma molte chiacchiere per dire che comunque buona parte di loro finirono in galera. C'è questa frequentazione, ma insomma così sommessa, non particolarmente significativa, almeno per quello che si sa, di Obama con uno di loro, e questa è diventata una delle frecce nell'arco dei repubblicani, nel tentativo appunto non di portare il discorso sulle issue, sulle questioni, ma di portarlo sulle personalità, sul confronto delle personalità, sulla affidabilità delle personalità. Il buon vecchio sano americano John McCain, con a fianco la ragazza, no? La ragazza della porta accanto, Sarah Palin, come cerca di presentarsi, oppure l'altro ticket più stravagante con Joe Biden, il politico di lungo corso, molto chiacchierone, ma soprattutto questo Barack Obama di cui l'America deve decidere se fidarsi o no. Molte sono anche le prese in giro che stanno bersagliando Barack Obama. Sentite questa. We're gonna spread happiness. We're gonna spread freedom. Obama's gonna change it. Obama's gonna lead. Qui addirittura si fanno cantare dei bambini come se fossero i bambini quelli tutti indottrinati, no, che si vedono in quei terrificanti documentari. Sentiamoli un po' sullo sfondo, eccoli. Documentari dell'indottrinamento infantile nei paesi comunisti di una volta, che ballano, cantano con il sorrisone stampato, ma in effetti una gran voglia di scappar via dalla messa in scena. Insomma, l'Obama indottrinatore dell'infanzia, della gioventù, l'Obama naturalmente di Jeremiah Wright, il suo pastore, che è stato rispolverato, l'hanno tirato fuori un'altra volta dal cassetto, non lo vogliono mandare in pensione, dicendo: vi ricordate, lui è amico del pastore che disse: non benedetta l'America ma sia dannata l'America. Questo è l'antipasto del dibattito di questa sera, ne parleremo nella seconda parte del programma. Scenderanno in campo l'uno contro l'altro in un dibattito dal formato molto particolare. Se avete voglia e forza, stanotte alle 3 lo si vede anche in Italia. Può darsi che attorno alle 4:30, quando il dibattito sarà concluso, ne sapremo veramente di più sulla capacità, sulla possibilità di uno dei due candidati di sovrastare l'avversario. President of the United States, John McCain. offers us an optimistic vision for overcoming hard times. And he's offering us real and pragmatic solutions for moving this country forward. E cosa vi abbiamo fatto sentire è un estratto dal vivo, in diretta con Jacksonville, Florida. In questo momento c'è Sarah Palin sul palco che sta parlando, sta galvanizzando i suoi sostenitori ormai. Cara Emiliano, ha già imparato, ha già come dire, appreso la lezione di come si tiene un comizio. Sto guardando questa pallina di bianco vestito. Di bianco vestito, vice presidenziale, insomma, sta dicendo che John McCain, il suo compagno, che è il suo capo in realtà, sa come galvanizzare, come ridare l'ottimismo agli americani. Io non so se è proprio questo il binario da percorrere in queste ore. Sono certo che nel dibattito di questa sera si parlerà di questioni più sostanziali, si parlerà di soldi e si parlerà forse un po' meno di ottimismo. Comunque la performance di Sarah Palin sembra assolutamente in linea con le ambizioni. Prima pagina. Tanto la Florida è stato cruciale, come lo è stato anche in passato. Come la Florida è stato cruciale. Certo, è uno dei famosi stati chiave. Allora, veniamo alla rassegna stampa in salsa cinese, diciamo così. Torniamo a parlare del cinese aggredito, picchiato a Tor Bella Monaca, periferia di Roma, la settimana scorsa, esattamente giovedì scorso. Intanto ieri ha lasciato l'ospedale, il policlinico di Tor Vergata, quindi apriamo con una buona notizia. Poi oggi c'è stato l'interrogatorio dei 6 ragazzi fermati per l'aggressione. Secondo quanto ha riferito l'avvocato Gianluca Arrighi, che è difensore di Michele, che è il giovane sedicenne che ha materialmente dato il pugno al volto del cinese, i ragazzi sono indagati per lesioni gravi, ma non ancora, perlomeno non per violenza razziale. Quindi per ora la componente razziale razzista è stata esclusa. Infatti il PM del Tribunale dei Minori, Carlo Paolella, ha deciso, accogliendo le richieste dei difensori, di avviare una serie di accertamenti e di ascoltare testimoni e naturalmente lo stesso cinese aggredito, al fine di verificare se nella vicenda sussista proprio la matrice razziale. Michele ha ammesso di aver colpito il giovane, il 36enne cinese, ma soltanto, dice lui, come reazione ad una serie di insulti ricevuti a sua volta dal cinese dopo che si erano urtati vicino a questa fermata dell'autobus di Tor Bella Monaca. Quindi praticamente ci sarebbe stato un piccolo alterco, un piccolo battibecco, al quale poi Michele ha reagito violentemente con un pugno del quale si è scusato. Invece gli altri 5 ragazzi coinvolti, tutti sedicenni, hanno negato qualsiasi responsabilità. 4 di loro addirittura, e questo anche Michele lo ha confermato, hanno dichiarato che non si trovavano sul posto e di essere stati fermati poi successivamente dalla polizia municipale nel centro commerciale, dove tra l'altro si erano appunto dileguati Michele e l'altro appunto colpevole dell'aggressione di fronte alla vista del sangue. Dunque ci scrivete, invece parliamo di un'altra questione americana, di show business. Ci scrivete, Simo da Pistoia ci scrive per chiederci che fine ha fatto il film di Oliver Stone sul presidente americano uscente George W. Bush, quello intitolato per l'appunto W, V doppio, no? Come la lettera del suo middle name. Ebbene, le agenzie fanno sapere che è in uscita, l'uscita è prevista per il 17 ottobre, ma è un'uscita limitata, come capita sul mercato americano. Escono solo alcune copie pilota, si vede un po' com'è la reazione del pubblico. Il grosso delle copie segue eventualmente dopo, se gli incassi sono soddisfacenti. Il cast è sontuoso, oltre a Josh Brolin che fa Bush, c'è Richard Dreyfuss, Tandy Newton, Ellen Burstyn, addirittura una gloria del grande cinema americano. E stavamo dicendo, il film doveva arrivare alla Festa del Cinema di Roma, ma invece lo sbarco è stato annullato, non si vedrà in Italia questa ennesima biografia, biopic a firma di Oliver Stone, dopo Nixon e dopo il film televisivo sul vecchio storico John Adams. Biografia sicuramente non autorizzata da Bush, perché non credo che il ritratto neanche sarà, da John Adams. Sarà dei più teneri. Allora, torniamo in Cina, dove il presidente della seconda banca più importante cinese, la China Construction Bank, il presidente in questione si chiama Guo Xuqing, parla di questa crisi che naturalmente va al di là dei confini di Wall Street e dice: non lasciatevi tentare, lo dice ai connazionali, ai cinesi, non lasciatevi tentare dal rischio di sfruttare il momento per fare affari a Wall Street. Meglio essere prudenti, suggerisce il presidente della banca China Reconstruction Bank, la più importante, la seconda più importante di Cina, dice insomma non approfittate di questo momento per illudervi di fare investimenti in America, state calmi sostanzialmente, e poi rassicura invece sulla solidità finanziaria del suo gruppo bancario, perché dice che la China Reconstruction Bank è al riparo dalla crisi, visto che il 98% dei suoi ricavi vengono realizzati in Cina, quindi non ci sono contaminazioni con la crisi americana. Oh, dunque, stanno uscendo delle ipotesi invece sulle motivazioni alla base della morte, ormai data per sicura, per garantita, addirittura sono stati trovati dei resti umani, per quanto ridotti, all'interno dei pezzi di velivolo del miliardario Steve Fossett. Finalmente, un anno dopo la sua sparizione, sono stati trovati a 3.000 metri di altezza sulla Sierra Nevada. Il suo biografo, che si chiama Will Ashley, anche un amico di Fossett, a quattro mani hanno scritto la biografia di Steve Fossett nel 2006, adesso si sbottona, insomma racconta secondo lui la vera versione dei fatti e parla senza mezzi termini di suicidio. Dice non so, ritengo possibile che quel giorno Steve si sia alzato in volo con l'idea di dare uno sguardo giù a tutta la sua vita e forse di seguire quello che lui classifica un desiderio di morte inconscio. Forse ha pensato che fosse per lui il tempo di farla finita. Le motivazioni, secondo William Ashley, per cui Steve Fossett si sarebbe tolto la vita sono sia di carattere sentimentale, un rapporto tormentato con la moglie Peggy, sia anche di carattere economico. Aveva sperperato praticamente tutta la sua fortuna accumulata in borsa, seguendo questa sua passione per le imprese impossibili, no? Il giro del mondo in pallone, cose di questo genere. Anche gli sponsor cominciavano a guardarlo con un certo scetticismo, anche perché 63enne ormai, era preoccupato per il conto in banca. Forse per questo Steve Fossett l'ha fatta finita. Però il corpo non è stato ritrovato, quindi rimane piccoli resti umani. Non voglio neanche pensare che cosa possa significare. Non vogliamo dare il numero verde per chi ha notizie di Fossett, no, evitiamo chi l'ha visto. Pace, allora, pace all'anima di Fossett. Ultima notizia dalla Cina, qui sconfiniamo forse nel surreale o nel grottesco, non lo so, perché alcuni parlamentari di Taiwan sono tornati sulla questione della SARS. Torniamo indietro da almeno di 5 anni, questa epidemia che tra l'altro fece anche diverse vittime in Cina, ma non solo. E addirittura inseriscono la vicenda della SARS nel quadro, niente proprio di meno che, di una guerra biologica. Uh-huh. Addirittura l'accusa arriva dal capo dei servizi segreti di Taiwan, che dice insomma che i cinesi stavano preparando questa guerra biologica e quindi hanno prodotto di fatto la SARS. Beh, insomma, non so se si possa commentare questa notizia o di fatto si commenta da sola. Ricordo invece che la SARS, la sua origine almeno ufficiale, viene fatta risalire allo zibetto, animale dalla carne prelibata, allevato nel sud della Cina. Le vittime furono 350 proprio nel continente cinese. Va bene, andiamo in pausa. Le notizie della borsa, io lo dico solo, anzi lo dico a sostenitori e detrattori, attenzione che alle 4:15 arriva Paolo. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you say, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you hair when I was fox? Now my foolish boat is leaning broken love lorn on your rocks. For you say, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart, shies from the sorrow. Le elezioni presidenziali americane 2008. Obiettivo 4 novembre. Dunque, sempre che abbiate la pazienza, la tenacia, devo dire anche il coraggio, l'ardore, stanotte alle 3 di notte di mettere la sveglia, non so, svegliarvi, imbottirvi di caffè, vedervi comunque in diretta i dibattiti, oppure vederli nella replica che le televisioni americane fanno alle 7, perché attorno alle 7 li rifanno da capo integrali, oppure vederli con la traduzione italiana che a più riprese viene approntata dalle nostre televisioni All News. Vi spiego un po' di che si tratta. È un dibattito particolare, è uno dei tre, il secondo dei tre, tra McCain e Obama. Viene moderato da un monumento del giornalismo americano, Tom Brokaw della NBC, un noto fautore del grande equilibrio, della grande calma, della grande patronanza di situazioni del genere, un veterano che peraltro sta lavorando da giorni alla selezione dei partecipanti, i famosi 80 partecipanti a questo dibattito, che infatti è un dibattito diverso dagli altri due, basati su domande vergate per l'appunto dal moderatore, perché è un dibattito, come lo chiamano gli americani, formato town hall, ovvero formato sala consiliare, no? Avete presente quanti film avete visto con la cittadinanza che si riunisce anche in un piccolo villaggio, nella sala consiliare, e lì tutti insieme si discute e si prendono decisioni insieme, no? Lo distruggiamo il campo a baseball per fare un parcheggio? No, e tutti votano, discutono e via di questo passo. In questo caso, appunto, gli 80 che dovrebbero essere cittadini incerti, cioè che ancora non hanno scelto la loro intenzione di voto, ma sarà vero? Boh, chissà, dobbiamo fidarci? Boh, chissà, faranno domande ai due contendenti, che poi per un po' risponderanno e poi, secondo me, vista l'aria che tira, dopo un po' cominceranno a tirarsi bastonate a vicenda. Ma lo spettacolo è questo, si prevede una audience record. Ne parliamo adesso con un amico di Jefferson Ming che ci ha raggiunto telefonicamente, ovvero Andrea Mancia, il vice direttore di Liberal. Ciao Andrea, come va? Buon pomeriggio, benissimo. Bene, grazie. Però ti vorrei lanciare, così tanto per ragionare insieme su questi eventi, che poi hanno anche un pandano un po' ironico, la palla, facendoti commentare questo articoletto uscito poco fa su CNN, sul sito, in cui, devo dire, la bellissima, io ne subisco il fascino in modo inevitabile, Campbell Brown, giornalista di CNN, si è messa adesso a fare la santa, dicendo basta con la campagna negativa, dovete un po' smetterla, se pensiamo che è quella che ha preso praticamente a sberle, televisivamente parlando, uno dello staff di Obama, zittendolo, facendogli fare una figura tremenda, poi ha detto che la Palin è una povera donna antifemminista perché non ha aperto bocca alle Nazioni Unite, adesso si mette a fare la santarellina, capiamo un po' che aria tira. A te piace Campbell Brown, tra parentesi? Sì, mi piace abbastanza, ma sono d'accordo con te, cioè forse è la persona meno adatta per poter fare, certo, la morale in questo momento della campagna, in cui, fra parentesi, almeno nelle ultime 48 ore si sono, così come si dice, tolti i guanti, certo, e sta, certo, partendo veramente l'ultima fase, che anche a seconda delle preferenze la più brutta o la più appassionante delle campagne elettorali americane in genere. Cioè, senti, ti faccio un'altra domanda diretta, ma che sia nazionale, stato per stato, contea per contea, palazzo per palazzo, ma a questi sondaggi ci credi o hai smesso? No, io continuo a fare la media, diciamo, non credo a nessuno di loro presi singolarmente, però se uno tiene conto dello stesso sondaggista e cerca di individuarne il trend degli ultimi mesi, è probabile che da qualche parte vicino alla verità arriviamo. Perché anche tu avrai notato che poi noi diciamo tanto dei nostri, ma anche i loro, di sondaggisti, vanno un po' ciascuno per la sua strada. Zogby va un po' più verso destra, magari CNN verso sinistra, è così, no? Sì, in linea di massima è così, tant'è che alcuni degli analisti più attenti hanno proprio calcolato, diciamo, il grado di spostamento partigiano di ogni singolo. L'aggiustamento. Esatto, e quindi, diciamo, grazie a queste tecniche di aggiustamento, e io ripeto, all'individuazione più del trend che del numero assoluto preso come valore in sé, comunque un minimo ci si può ancora continuare a credere, anche se oggettivamente quelli, i due o tre che ho visto fra ieri notte ed oggi vanno in direzioni opposte anche come trend, perché l'ultimo credo sia delle 3:30 ora italiana, è un Rasmussen che lo fa tutti i giorni e continua a dare Obama più 8. Uh-huh. Ieri sera è uscito, ieri notte anzi, stamattina all'alba per noi italiani, è uscito un ABC Washington Post con Obama più 6. C'è un Zogby a più 3, no, se non sbaglio. Un CBS News a più 3 e uno Zogby fatto per Reuters, che fra parentesi inizia anche oggi a fare il tracking, quindi lo avremo tutti i giorni, certo. Anche Zogby, oltre agli altri 5 che tutti i giorni fanno un sondaggio, certo, nazionale, certo, che dà Obama più 3. Sinceramente non so cosa pensare, perché è proprio, diciamo, la tendenza che va in due direzioni opposte. Senti, fai un po' il facile oracolo, come si dice, che dibattito ti aspetti, anche che performance così ti senti di prevedere? Io credo, forse per la prima volta, che questo tipo di format, cioè il format town hall, favorisca McCain, uh-huh, oggettivamente, che è più abituato a farli, che riesce, diciamo, a volte a improvvisare in maniera abbastanza anche ironica delle volte, mentre Obama, a dire la verità, ne ho visti meno fatti con questo formato da Obama, e forse questo ci può anche far riflettere. Obama mi sembra meno adatto. Poi c'è anche più il gusto dell'ammiccamento, no? Della battuta. Sì. Poi se calcoliamo, appunto, che sembra ormai chiaro che la campagna di McCain stia tentando, diciamo, l'ultima carta, quella più dura, cioè dell'attacco personale, diretto e personale nei confronti del candidato democratico, il format, diciamo, si presterebbe anche abbastanza a questa cosa, a patto di trovare, diciamo, qualche domanda compiacente del pubblico. Certo, bisogna vedere come sono riusciti a organizzarsi i due staff. Io so che quello di Obama, per esempio, era stato molto attento nella selezione delle persone che dovranno fare le domande questa notte, certo, appunto per cercare di proteggere Obama fondamentalmente. In questo momento ovviamente quello che ha più da perdere è Obama, cioè un pareggio ovviamente favorisce lui. Senti Andrea, prima di lasciarti due messaggi per te, ci sono, te li giro, devi rispondere rapidamente, insomma. Il primo mi chiede di farti da intermediario per sapere se pensi che potranno essere determinanti i voti che finiranno al Libertarian Party, a Nader e a Baldwin. Ce lo domanda Simo. Ci credo poco. I sondaggisti si dividono in due, in genere quelli che li considerano e quelli che non li considerano. Quelli che li considerano, diciamo, sia Barr che Nader prendono almeno il 5%. A me sinceramente tanto, sembra un po' troppo, tanto. Cioè secondo me poi il 4 novembre questo 5%, diciamo, si dividerà fra i due candidati dei partiti, certo, maggiori. Certo. E una seconda domanda rapidamente, quanto secondo te di quello che sta succedendo a livello economico può favorire i democratici? Beh, questa è una domanda da 1000 punti, ma comunque... 100%. E vuole saperlo Giancarlo, e perché secondo te? Perché se c'è una costante, anche nei sondaggi molto ballerini che ci sono stati in America negli ultimi 12 mesi, è che sui temi economici gli americani si fidano di più del Partito Democratico e nella fattispecie del candidato Barack Obama. Quindi bene, ogni giorno in più che i temi economici restano sulle prime galla, pagine, certo, dei giornali, è un giorno favorevole ai democratici. Bene, allora appuntamento stanotte alle 3 all'Università di Nashville, Tennessee, a casa di Al Gore, per vedere come va. Naturalmente domani si commenta, si parla, si calcola. Grazie Andrea Mancia, buon caffè stanotte se ce la fai a vedere i dibattiti. Ciao. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I'd look to find a reason to believe. A questo punto alcuni di voi si innervosiscono, altri però gioiscono. Infatti già riceviamo messaggini che definirei anche un po' eccitatelli, insomma, perché c'è chi lo ama, c'è chi non lo sopporta, spegne la radio, basta, cambia sintonia, perché si riparla di un personaggio che ormai accompagna Jefferson Ming da tempo immemore e che noi spudoratamente amiamo, perché è diventato uno in un certo senso dei simboli, ma anche un po' un piccolo eroe normale della nostra trasmissione, perché lui è un ragazzo, un signore, insomma, 35 anni, di Venezia, come tanti di noi, che però un bel giorno, vero Emiliano, ha fatto un passo diverso da quelli che noi di solito facciamo, e questo ci ha incuriosito e ci ha fatto venir voglia così di pedinarlo. È il nostro grande, immarcescibile, immenso Paolo, che credo rappresenti uno dei picchi di ascolto anche di Jefferson Ming, che ormai da un anno è invischiato nel bene e nel male in una storia d'amore tormentata con una ragazza cinese di 10 anni più giovane, vive dall'inizio di quest'anno a Shanghai, e noi periodicamente... Ha lasciato la famiglia, litigando, poi adesso questa frattura con i familiari è stata ricomposta, poi ha lasciato soprattutto un lavoro sicuro, perché aveva un lavoro a tempo indeterminato in un'azienda di servizi del Padovano, insomma, quindi stava bene tutto sommato qui in Italia, però l'amore lo ha completamente stravolto nelle sue abitudini di vita, è partito armi e bagagli per Shanghai e adesso dall'inizio di quest'anno vive a Shanghai questa altalena amorosa. Viene anche monitorato dal nostro fido Saro Capozzoli, ogni tanto lo incontra, ha incontrato anche la ragazza, certo. Quindi abbiamo, diciamo, tutte le prove che di quello di cui parliamo periodicamente con Jefferson Ming è tutto vero e certificato. Adesso era da un po' effettivamente che non sentivamo Paolo, dall'inizio di settembre, e anche, devo dire, su sollecitazione degli ascoltatori siamo ritornati puntualmente robusta richiesta sulle tracce di Paolo. Quindi adesso un po' alla volta ve ne daremo le novità, ce ne sono tante, sono interessanti. I piatti forti ce li teniamo magari. Ce li teniamo, sì. Domani, partiamo con un antipasto, ovvero questo è il Paolo opinionista, ecco come lui dal suo osservatorio molto locale ma anche molto di strada a Shanghai ha vissuto l'emergenza del latte contaminato. La prima è stata la mia mamma ad avvisarmi, come sempre la mamma è sempre la mamma ed è sempre apprensiva. E quindi la mamma ti ha avvisato dall'Italia? Sì, ma lei è diventata una assidua, diciamo, segue molto le vicende cinesi per, credo, televideo, per la televisione, insomma, e quindi non è la prima volta, anche il terremoto è stata, mi sono sbagliato, è stata lei, è sempre lei la prima che sente dall'Italia e subito, immediatamente mi chiama per avvisarmi o per sentire come sto, forse anche 3 settimane fa per il discorso del latte, mi ha detto: oh, ho sentito che in Cina hai sentito il latte contaminato. Ho detto: no, non so niente, sei la prima ad avvisarmi. Poi da lì con la ragazza, poi abbiamo parlato un po' con la ragazza e ho seguito un po' la vicenda anche attraverso di voi un po', perché ogni tanto vi seguo tramite internet. La ragazza di solito prende lo yogurt ogni giorno, un tubo grande di yogurt, quindi contenente molto latte. Ultimamente ha smesso di prenderlo, probabilmente da quello che mi ha fatto capire per questo discorso qua. Adesso, ma tu invece, Paolo, so come ti sei regolato col latte? Ma io quando ero in solitaria, quindi in agosto, la colazione la facevo all'italiana, quindi anche con il latte, biscotti, e quindi mi prendevo proprio il litro di latte. Poi quando è ritornata lei, l'uso del latte è praticamente calato a zero, cioè la colazione non la faccio più all'italiana, ma la faccio un po' in stile cinese, quindi di latte, diciamo, non ne faccio granché uso. Ti è capitato di vedere in televisione servizi che riguardassero il latte, oppure leggere sui giornali o vedere foto riguardanti il latte, o proprio è un argomento magari di cui si parla poco? Non mi pare di aver visto tutto sto tram riguardante il latte. Ma che gliene frega, Paolo, del latte contaminato? Ma insomma, chi non lo conosceva, secondo me, già come dire, è rimasto un attimo sto pensando alla colazione cinese che sì, fa Paolo, che tra l'altro rigorosamente, questo potrebbe spiegarcelo Saro Capozzoli, prevede anche le zampe di gallina, quindi vabbè, ma queste sono proprio ma comunque le colazioni in solitaria ad agosto a Shanghai, ha un gergo straordinario, è un uomo insomma veramente insostituibile. Comunque, adesso, per chiudere la parentesi di oggi su Paolo, poi naturalmente ci torneremo perché ne abbiamo molto altro, ecco le ultime novità sul suo lavoro. Il lavoro ancora non è arrivato. Qualche settimana, 10 giorni fa, lo stesso italiano che un mese e mezzo fa mi aveva girato la dritta della scuola di Wuxi, quindi qui vicino a Shanghai, che stava cercando un insegnante di italiano, che poi la cosa è arrivata un'altra ragazza prima di me e mi ha soffiato il posto. Mi ha scritto via email 10 giorni fa dicendomi che un'altra scuola era stato contattato da un'altra scuola, stavolta non qui vicino a Shanghai ma dalle parti di Pechino, la capitale dell'eBay, che adesso il nome è complicato, non me lo ricordo, comunque dalle parti di Pechino, che cercava disperatamente un insegnante di italiano per di lì a giorni, perché il corso iniziava il giorno dopo, 2 giorni dopo, quindi erano alla ricerca di un insegnante di italiano. Io sinceramente da una parte sarei stato ben felice di accettare, ma emigrare, un conto è Wuxi, che è un'ora di treno da qui, e facendo il pendolare giornaliero la cosa era fattibile, un conto è andare a Pechino, le distanze qui non sono molto piccole, e avrebbe voluto dire stare lontano nuovamente dalla ragazza e vederci sì e no una volta o due alla settimana. Quindi morale, ho risposto a lui, l'ho ringraziato del gesto, che non me l'aspettavo che mi ricontattasse un'altra volta. Però non te la sei sentita non te la sei sentita di andare fino a lì? No, non ho, poi non, sì, adesso stiamo parlando con i se, con i ma, quindi poi non ho neanche contattato la scuola, o non so se avessi deciso di accettare, poi se fosse andato, sarebbe andato in porto la cosa. Comunque, ecco, questa è la cosa, sto mese, quella un po' più rilevante. Poi ho mandato, ho lasciato il mio curriculum a 2 o 3 agenzie che si occupano di insegnamento delle lingue qui a Shanghai. Le piccole e grandi avventure di Paolo, nonché di Xiao Shuang, come si chiama la sua ragazza, nella Shanghai del 2008. Altro che Blade Runner, ci torniamo, vero? Domani altre cose, poi parleremo soprattutto forse di quello che la gente vuole sentire, cioè la storia d'amore, come sta andando avanti. Bene, bene. Questo è Jefferson Ming, domani naturalmente si parla, si fa anche un consuntivo del debate di Nashville di stanotte. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini e a Milano Valeria Bernardi. L'indirizzo mail jeffersonming@radio24.it. Andiamo in replica stasera alle 9, in diretta domani alle 4 qui da Radio 24. Bang bang，变来变去都只是游戏。 所谓真假，社会本来就是这样，被误会又怎样，被相信又怎样，玩不起这游戏的人就请靠边站。狗狗嗅觉非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲黑白分辨不清，观众也就跟着相信。最重要的是对得起自己不变的道理，高手过招戴着面具，谁能活得动静谁赢。我回家去打坐取舍生养性，沉默的人最聪明，不做无聊的回应。